Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni sorso 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. E poi presidente, non si offenderà, a tutti e due, io e lei, mi pare che la Fiorentina ci piaccia molto e ce la mangiamo a pranzo e a cena, no? Sì, sentiamo le grandi inchieste di Tiki Taka, il nutrizionista Cruciani, eccolo qua, il nutrizionista Cruciani ci dica, non ingrassa. Sei tu che sei andato sul terreno del peso, cioè se uno mangiasse la Fiorentina due volte proteine, per cui zero. Carne rossa, zero. Presidente, lei è come me, mi sa che è per il carboidrato, Noi siamo. Io pure sono per il carboidrato. Noi dobbiamo fare una crociata per i paffutelli, sennò qui ci criticano troppo. Dai, non vogliamo, presidente. Ti ringrazio di tutti perché mi hanno chiaramente contestato anche il peso fisico e hanno ragione. Si è messa a dieta. E sul peso fisico io perché io faccio tesoro di quello che praticamente dicono. Ci dato qualche suggerimento pure a noi magari. È costruttivo e quindi mi sono messa a dieta perché siccome io dovrei rappresentare, dovrei soprattutto le persone che ancora mi danno fiducia, anche loro, e quindi è giusto che li rappresenti al meglio. Senta un po'. Dal punto di vista fisico. Guarda, ma che è sta roba? Che è? Sai, quando hai ospiti... Ma io chiamo Paolini. No, dico, quando hai ospiti in studio fra gli altri a Tiki Taka, il signor Cruciani, noto nutrizionista, è chiaro che non puoi, esimerti, no, dal trattare queste materie, queste vicende. Sì, ma comunque io chiamo Paolini lo stesso, perché se voglio parlare di Fiorentina e di pranzo e di magnà tutti i santi giorni, allora chiamo Paolini. Che dici? No, hai ragione, ma soprattutto l'ho anche citato, il gastronauta, il signor gastronauta, però c'era tutto il tema del tweet della Fiorentina, dai, sì, non è no, che un riferimento c'è. No, ma sta scherzando. È infinita e quindi... qualsiasi pretesto è buono, però insomma. Comunque, se il signor Paolini è all'ascolto, il signor gastronauta è all'ascolto, lo aspettiamo. È 800 24 00 24, ma lui conosce perfettamente, qui è di casa da sempre, conosce perfettamente i numeri della diretta. Sarebbe un piacere parlare con lui di dieta mediterranea, di locali in cui si mangia bene, soprattutto a Napoli e a Bari, dove dobbiamo andare, eccetera eccetera. Senti, ma è vero che De Laurentiis ha fatto le pernacchie ai tifosi della Roma? Così pare, pare che abbia fatto le pernacchie ai tifosi della Roma, però lui ha detto questo: molti, soprattutto i tifosi della Roma, mi rimproverano di aver fatto una pernacchia verso i romanisti allo stadio, è un fraintendimento, non volevo emulare Eduardo De Filippo, stavo solo urlando un olé a Calejón. Lo scrivo ovviamente su, dove l'ha scritto? Dove può averlo scritto? Su Twitter. Ma sa va san dir. C'è anche chi dice, ma non so se è vero, non so se è confermato, che ci sia stato un lancio di bottigliette di plastica sulla barella che portava Strootman, ma non lo so, io non ero a San Paolo, quindi queste sono le cose. Quello che non... ho letto e può assolutamente essere una... Non l'ho vista, ma se fosse così gli taglierei le mani. Giusto per andare con una, proprio però, una punizione minima. È una cosa, è una leggenda che gira, magari è vera, magari è falsa. Senti, ma invece poi andiamo in Spagna, perché oggi stiamo cazzeggiando amabilmente, perché tutti sappiamo che questa sera è partito il viaggio della speranza, ultima speranza per il calcio italiano, è il Milan, eccetera. Ovviamente di questo parliamo anche con voi, 800 24 00 24. Gia fa al Milan, per me gia fa, però vediamo. Hai letto invece, saprai che Spalletti a casa, torna, sì, dalla Spalletti Russia a casa, abbastanza dopo, sorprendentemente, abbastanza, no? Sorprendentemente per la tempistica, però insomma alla fine mi pare che i conti non tornassero, al di là del fatto che Spalletti è un bravissimo allenatore, forse si era anche rotto qualcosa, insomma io credo che al di là dell'onta dell'esonero, magari per Spalletti potrà essere un'occasione per rimettere un punto in una realtà un po' diversa. Sai cosa? Una considerazione generale, Pier. Cioè, ovviamente Spalletti paga le botte gol prese con il Borussia Dortmund all'andata, una partita che non può essere raddrizzata. Una considerazione di massima molto seria, invece, secondo me, è questa. Continuiamo, cioè, da un po' parliamo del valore medio dei campionati, ha cominciato Capello, ma è un discorso molto vecchio, no? Campionato allenante, non allenante, di alto livello, di basso livello, migliore o peggiore rispetto al passato. Oggi c'è un interessante calcolo sulla Gazzetta, un'interessante inchiesta sul tempo effettivo in cui si gioca a pallone nei vari campionati. In Serie A si giocherebbe 54 minuti e 55 secondi a partita, terzi dietro inglesi e tedeschi. Io a questa statistica credo fino a un certo punto, perché secondo me si gioca molto di meno, soprattutto nelle partite importanti. Però la considerazione che sta a monte è che questo mezzo primo ottavo, questa prima metà degli ottavi di finale di Champions League ha raccontato la verità, è questa: ormai l'oligarchia sta diventando sempre più strapotente, ormai ci sono quattro club grosso modo in Europa che sono inarrivabili non solo per le competitors interne ma anche per quelle internazionali. Questo annacqua, i campionati spariscono, no? I campionati nazionali non hanno quasi più ragione di esistere per quanto riguarda la corsa al primo posto. Sai già chi vince in Francia, sai già chi vince in Spagna. Con l'eccezione dell'Inghilterra. Con l'eccezione vaga dell'Inghilterra. Però alla fine sono quelle 4-5 che sono delle navi da guerra armate all'interno di uno stagno, e alla fine loro si contendono anche la Champions League, che era fino a poco tempo fa il regno l'unico regno del sogno e dell'incertezza. Assolutamente sì, è tutto giusto, tutto vero, è una tendenza, un allargamento della forbice tra grandissime squadre e grandi squadre che sta diventando inquietante per il divertimento complessivo. Su questo non ci sono grandi dubbi. L'andata degli ottavi di finale di Champions League è stata forse una delle più noiose della storia. Di contro, io penso che se non ci saranno grandi sorprese ci consegnerà dei quarti di finale pazzeschi, perché insomma alla fine io credo Bayern, Real Madrid, Barcellona, con tutti i problemi che sta avendo adesso, comunque rimane una grandissima squadra, Paris Saint-Germain, insomma ci sono 5-6 squadre che sono clamorose. Ma dobbiamo aspettare i quarti di finale e vederle una volta sola? Allora, oppure torna all'attualità l'argomento della Superlega europea, di cui che è un po' come la Spectre, no? Tu lo sai, quell'entità astratta e minacciosa che sta sullo sfondo. Si potrebbe tornare a parlare di quello, anche perché io ho detto molte volte, a me piaceva la Champions League con due fasi a gironi. Non mi importa se vedo per 4, 5, 6 volte in una stagione Barcellona, Manchester City o Manchester United o Chelsea Real Madrid. Queste grandi partite possono essere anche duplicate nel corso della stagione, non è detto che si debba ridurre a un quarto di finale, a una semifinale di Champions League. Prima del traffico ho questi due sms. C'è chi domanda, Carlo da Lodi, chi è lo straordinario Giacomo Melli? dell'incerto del foglio, facciamo che ne so, te lo domando, chi è lo Jack... un inserto che facciamo con gli amici del foglio tutti i martedì, sì. Il foglio da questo giornale, quindi chi è? È un'entità astratta, anche quella astratta e astrale, è un guru, è un poeta dialettale. Vabbè. torniamo sulla terra, almeno proviamoci. C'è invece Andrea che scrive: volevo avvisarvi che un antico romano nel trailer del cartone Mr. Peabody è identico a Pardo. Traffico, visto, traffico. Tutti convocati. Siete tutti convocati per dire quello che vi pare. 800240024 come tutti i giorni. Pierluigi, ma chi è Mr. Peabody, scusa? Mister? No, questo antico romano del trailer del cartone Mr. Peabody, che è identico. Ma non lo so, a me mi hanno mandato su Twitter un po' di queste cose, in effetti devo dire che gli assomiglio. Sì. Bellissimo ragazzo, sì, questo mascellone alto, insomma. Sì, ci sono, diciamo, siamo proprio lì, ecco, cioè, mamma è una specie vedere, di trasposizione cartonata del sottotitolo. Cartonata, è un cartonato di Pardo. Cartonato, il signor cartonato. Sai chi c'è al telefono? Ricci. Bravo, come hai fatto a indovinare? Mister Peabody, come hai fatto a indovinare? Dove sei, Ricci? Dove sei? A Madrid? Io? Sì, sì. Tu. Ciao Filippo. No. Ciao. Secondo te dove sono? Al ristorante, dove vuoi essere? No, fuori, devo ancora entrare. Ma perché ci siamo noi a spaccare i maroni o perché... o perché... No, c'è la coda. Appuntamento alle 2:30, 2:15, tutto perfetto. È chiaro. Senti, ma domani Barcellona o no? No, no, domani, attese, mi sposto, vado a Vittoria a occuparmi di baloncesto. Veramente? Oh, well, well. È una grossa esclusiva della Gazzetta. Non dico niente. Non dici niente in che senso? Non ve lo dico. Ma che cosa? Cos'è che non la dici? La grande esclusiva. Domani. Cioè domani la grande esclusiva della Gazzetta e non ci dici niente. E ci fai sapere che vai a Vittoria a vedere l'Olimpia. L'Olimpia. No, gioca lì, che vuoi andare esatto. a vedere? Cioè, gioca in casa di Scariolo, l'Olimpia, con Scariolo ultimo in classifica, e Milano bravo. Che... Cioè, va fortissimo, no? Il Basconia. Basconia no, va male, devo dire che va male. Adesso ha preso Lamar Odom, superstar, ex superstar dell'NBA, che ha avuto i suoi problemini con sostanze molto illegali. E... eccetera e poi è arrivato, sei infortunato, no? Senti, partito è partito è partito no, il viaggio della speranza passato passato sopra Lourdes, l'aereo del Milan, una prece e poi si atterra a Madrid. Milan ultimo soldato italiano nella campagna della grande Europa, abbastanza ferito, forse al fucile di latta, forse serve un bluff, forse un miracolo. Sì, un miracolo, ma guarda, io ti dico, perché al di là degli evidenti limiti del Milan, il problema è l'Atletico. Non vedo perché questo Atletico, questo Simeone, si debba far scappare un'occasione così. Cioè, ci sono i quarti di finale a un passo. Mm-hmm. E l'Atletico è stanco, però resta comunque un'ottima squadra. Sì. E stanco, mai ripresa, no, ma neanche secondo me, e non è detto che si facciano scappare il campionato, anche perché il Barcellona è stato atterrato, e allora c'è, come sappiamo, c'è un altro. Domenica mattina guardo la Gazzetta dello Sport, giornale a caso, caro Filippo Maria Ricci, e vedo il titolo: Rossi stende il Barça. Dico, dunque, Rossi, Paolo no, Pepito no, Deglio non è tornato ad allenare, Vasco non può essere, Valentino sta facendo le prove a Sepang, chi è? Ahí la tiene Rossi, la intenta bajar, aparece Xavi para robar, la recupera el Valladolid que vuelve a colocarla en la frontal de la grande, balón para Rossi que dispara, le cae a Javi Guerra, el rechace, la prueba que para engatillar, balón para Rossi, gol. De comentarista de la serie. O preferisci ti chiami Faustino? No, sono italiano. Sei italiano e ci tieni. Nel Valladolid, giovanile nella Juve e poi Brescia Vicenza, ma soprattutto adesso questo gol al Barcellona, che forse è qualcosa che può cambiarti la vita, caro Fausto Rossi. Sì, può essere sicuramente un gol molto importante, il più importante della mia carriera, quindi potrebbe. Ah, poi magari poi te lo facciamo raccontare da Pardo il gol. Faustino, complimenti innanzitutto, fra l'altro. Grazie. Avevi appena fatto un'intervista e poi hai visto che le interviste possono anche portare bene nella vita, non è per forza che porti la sfiga. E, ma a parte le battute, come hai visto il Barcellona? Come ti è sembrato? Nel senso che insomma la sensazione, voi avete fatto una partita incredibile, però il Barça è stato veramente molto molto deludente, merito vostro sicuramente, ma ti ha impressionato in negativo come ha per esempio impressionato me? Sì, sicuramente ultimamente gli manca qualcosa al Barça, soprattutto penso a livello fisico, non hanno quel ritmo forse nato che li contraddistingue da sempre, quel cambio passo, hanno sprecato comunque pochissime occasioni, due, perché ne hanno avute poche, ne hanno create poche, siamo stati bravi noi, ma loro non li vedo ultimamente molto in forma. Filippo Maria Ricci, sei d'accordo con Fausto Rossi e con Pardo? Assolutamente. Oh, qua ormai siamo coppia fissa, è cabaret, ma domenica anche eravamo sulla Radio 24, Ricci e Rossi. Ricci e Rossi, infatti vi compriamo, vi compriamo tutti e due. Adesso appena Pardo mette i soldi, vi compriamo tutti e due. È chiaro, lui costa di più. Vai, una sola cosa. Fausto Rossi non ha mai giocato in Serie A. A chi lo dejo, come dicono gli spagnoli, vi lascio questa riflessione. Com'è possibile? Com'è possibile, Faustino? Com'è possibile, Faustino? Non lo so, non ho idea. Sono contento del percorso che sto facendo qui e della fiducia che comunque mi hanno dato e mi stanno dando qui. L'ho detto più e più volte, se non ho esordito in Serie A un motivo ci sarà e bisogna chiederlo agli altri e non a me sicuramente. Vuoi che faccia chiamare Pardo, vuoi che Pardo chiami Renzi? Facciamo rientrare oltre i cervelli i piedi? È un calcio un po' diverso. Che neanche Renzi ultimamente riesca a risolvere i nostri problemi. Senti, ma dal punto di vista proprio tattico del modo di giocare è diverso, è più difficile, è più complicato il calcio italiano con quello spagnolo? Che differenze ci sono? Perché ci sono tante leggende metropolitane, no? Sul fatto che noi siamo più tattici, però abbiamo difese migliori. Tu come la vedi? Sì. Il nostro calcio è un po' più tattico, è meno aperto sicuramente a situazioni offensive, nel senso che qui in Spagna c'è molto ritmo, le squadre comunque sia in casa che fuori vanno a giocarsi la partita a viso aperto, contro grandi squadre o contro le piccole, non fa differenza. Quindi si bada più, diciamo, al calcio offensivo e allo spettacolo rispetto al calcio italiano, che è un po' più pragmatico, un po' più tattico, un po' più intenso a livello prettamente fisico, dico di scontro fisico, non di ritmo. Faustino, tu hai parlato di fisico, ma sai la polemica di questi giorni, Prandelli, in Italia si corre poco, non siamo preparati fisicamente, eccetera, eccetera. Dal punto di vista fisico proprio, come valuti il campionato italiano rispetto a quello spagnolo, il calcio italiano rispetto a quello degli altri paesi? Guarda, penso che comunque l'amichevole con la Spagna sia la dimostrazione che probabilmente ancora un qualche cosa ci manca, soprattutto a livello fisico, perché sembrava loro avessero una marcia in più. Quindi penso quello in questo momento faccia la differenza. Poi sinceramente non ti so dire, perché ripeto, non avendo giocato in Serie A non ho il termine di paragone. So solo che qui sicuramente c'è un ritmo alto. Diverso. L'ultima cosa, Fausto, poi ti saluto e vado avanti a chiacchierare con Pardo e Filippo Maria Ricci. Come fa, domanda scontata, banale, però come fa il Milan a battere l'Atletico? Penso sicuramente sia molto difficile, perché l'Atletico, pur essendo stanco per le tante partite che sta facendo, però è una squadra comunque con la S maiuscola, perché è un gruppo compatto, un gruppo unito, difende sempre in 11 dietro la linea della palla, quindi penso sia molto difficile. Però penso che una chiave possa essere probabilmente qualche cambio di gioco in più, perché loro stringono molto, molto, molto con gli esterni il campo, e magari arrivare al cross come è stata l'andata e dalle fasce cercare di creare dei problemi. Meglio Diego Costa o Balotelli? Ma ultimamente è più decisivo Diego Costa, quindi io sono sempre per i dati effettivi e per i numeri, quindi i numeri per ora danno ragione a Diego Costa, anche se Balotelli comunque è un grandissimo campione e ha dalla parte sua comunque il tempo che potrà sfruttare per dimostrare le sue qualità. Grazie Faustino. Sentiamo grazie presto, a voi, grazie. Sentiamo presto, ormai il duo con Filippo Maria Ricci è costruito e non possiamo... La pareca grande, grande parto. Una pareca di livello incredibile, no? Una delanteria fantastica può essere Ricci Rossi, Rossi che sta un pochino más adelantado y Sì, vabbè, Depras. Don Fabio Capello, faccia il bravo. Perché... lo más importante, Filippo, acuérdate, es el doble pivote. En el fútbol español siempre va jugando... Bardo, l'espirito della camiseta. La frase... numero uno che Capello diceva sempre del Real Madrid era vamos, oppure tenemos que recuperar el espíritu de la camiseta blanca, una cosa che qui magari poi un giorno lo mettiamo lì. L'avrà detto 700% volte ed era vero, nel senso che in quel momento quello che mancava era proprio l'espirito della camiseta blanca. Quindi... con Ancelotti la chiave è sempre nella E, cioè? Per Capello era l'espirito e per Ancelotti è l'equilibrio. L'equilibrio. Lo so, sono molto importante, però vorrei chiudere questo momento con Ricci ricordando il momento meraviglioso del Capello che è da te. Capello che è da te, con tutto il ristorante che invocava davanti al presidente Calderon, che aveva già deciso di licenziarlo in grande imbarazzo dopo la vittoria della Liga. Tutto il ristorante Capello urlava Capello rimani, e davanti al Calderon imbarazzo. Un plebiscito. Poi qualcuno un giorno mi deve raccontare anche, perché ieri, tu lo sai Pierluigi perché eri qui con me, Filippo no, ma glielo dico, perché quando si parla di Conte arrivano fuori 80 ascoltatori, 80, 90, 100, 80024, 0024, dicono ma Conte cos'ha da parlare che ha avuto quel processo lì e quindi stia buono zitto e alla gogna, no, perché lui ha... Capello ha allenato una Juventus che conosciamo bene, però Fabio Capello quando parla tutti sull'attenti. Però in questo momento Capello è come se fosse svizzero, cioè è una come se fosse svizzero, è anche l'allenatore più pagato del mondo, del pianeta. In questo momento non è connotato con nient'altro, ecco. No, però la sua analisi sul calcio italiano era assolutamente corretta ed è stato un po', no? Criticato per questo, ma voglio dire, i nostri limiti in questo momento sono evidenti e basta. Se uno lo dice, non è che fa del disfattismo, dai limiti si può anche poi ripartire, insomma, riconoscendo le proprie lacune. Però in questo momento è così, la partita di stasera teoricamente dovrebbe confermarlo, poi speriamo di no, perché qua rimanere in Europa senza italiane a me darebbe molto fastidio. Però questa è la situazione, insomma. Filippo, ci sentiamo domani? A voce ferme? Vai, dai, non prende gli impegni, dai, salta un mangia un panino e stai con noi anche domani. Yeah. No, tranquillo, domani. Bene. Buono, hermano. Come cantano il verbo che usano qua? I collora la radio, nessuno, Bello, bello. Questo clip che ho messo prima è stupendo. Ciao Filippo, ciao. Phil, ti stai lì. E poi dobbiamo giocarla 11 contro 11 dall'inizio, poi dopo alla fine gara vediamo chi è venuto fuori vittorioso. Passerà solo una squadra, ma d'altra parte un'altra opportunità di superarci, come nella vita si fa tante volte. Tutti convocati. Direi che sarà un approccio simile in entrambe le parti come la prima gara, con un vantaggio da parte loro, questo sappiamo, ma l'atteggiamento non credo che cambierà. La storia si insegna tante cose, che un anno difficile come il 2007, con tante veramente complicazioni, siamo riusciti a tirar fuori energie da per dove non c'era e fare partite contro avversari molto importanti. Clarence Seedorf, quello che avete sentito. Veglia, 800240024, adesso tocca a voi. C'è Pardo? Eccolo. Andato al bagno? C'è no, sta? No, no, ci sto. C'è sta. Una domanda, ma è un programma di informazione oppure cabaret? Ma che domanda, idiota, cabaret, no? Cabaret, certo. Infotainment. Volete che faccia programma di informazione? Te lo faccio? Faccio? Allora, questa sera ore 20:45, Milan in campo al Calderon. Il risultato dell'andata è 1-0 per gli spagnoli. Questa sera Seedorf schiererà Abbiate in porta, Abate a destra, Rami e Bonera centrali e Manuel Sosa a sinistra, poi De Jong e De Sien, diga di centrocampo, Quindi davanti i tre trequartisti, Tarabt, Poli e Kakà, e unica punta, Mario Balotelli. Ecco, ecco, già dato. Diga. Fatto. Già Diga, non dica di centrocampo già era un po' da infotainment, era già un po' da programma di cabaret, era una licenza poetica che tutti devi attenere a gli 11 nomi, ecco, senza 11 nomi, senza dire una parola in più. Va bene. Mirko? Sì, ciao. Ciao. Grazie, dimmi. Di avermi convocato. Allora, nel programma di cabaret. Va bene. Va bene. Ho sentito la formazione del Milan, insomma. Vabbè. Ascolta, premetto che sono un tifoso del Verona e quindi il mio parere è neutro. E quindi hai goduto abbastanza nel sentire la formazione del Milan? Esatto. Dai, su, diciamolo. Allora, guarda, questa sera tutti pensano che il Milan non ce la possa fare. Sì. Io dico che il Milan due gol li può fare, ho visto anche l'andata. Il problema è la difesa. Ne ha fatti zero? Vabbè. Esatto. Appunto. Il problema è la difesa, hai capito? Beh sì, no, il problema è anche l'attacco, però Mirko fa il bravo. Cioè. Ascoltami, sì. Ipotizziamo che Milan questa sera passa il turno, ma a Madrid è il viaggio della speranza stasera, ma se dopo a Madrid ci ritorna... No, ma vabbè, ma lì vale tutto, Mirko. Cioè, ma lì, se il Milan passa il turno stasera, può tornare in carosello a Milano, se avesse vinto la Champions League. Se cioè, il Milan passa stasera... Torna a Madrid e ne becca 4-5. Ma sì, ma non è questo il punto. Non è questo il punto. Cioè, il Milan, se passa questo turno e va ai quarti di finale di Champions League con sta squadra che ti faceva sorridere, fa sorridere anche a me. Ha vinto la sua piccola Champions, poi va a Madrid, gioca una partita torna a Madrid, magari sì, contro Ancelotti, gioca una partita con il cuore completamente scarico, cioè senza nessuna pressione. In totale allegria, sì, poi ne becca 8 là e 4 qua, ma questo è vero. D'altra parte, Pier, anche un ascoltatore sottolinea: ma come si fa a paragonare il Milan del 2007, cosa che ha fatto Galliani ricordando certe imprese di un'altra squadra? Come si fa a paragonare il Milan del 2007 a questo? Quella era una squadra, questa è Nacho Feca, scrive l'ascoltatore. D'altra parte, gli unici di questa squadra che conoscono la strada, minimamente la strada, o molto bene la strada come Kakà, sono Abbiati, che giocava nel 2003, nel Milan di Champions del 2003, sebbene non titolare, ma con una grande parità a Manchester, ovviamente Kakà, e poi un po' Bonera, Balotelli per essere comunque partecipe dell'Inter del triplete, certo. E gli altri due stanno seduti in panchina vestiti di Dolce Gabbana. No, ma sicuramente, il paragone tecnico non ci sta. Galliani lo fa perché chiaramente Galliani è una delle cose che ci sono in comune tra quel Milan e questo, e quindi pensa giustamente all'ottimismo dell'esperienza, si rende conto che è importante caricare l'ambiente, ma è ovvio che questa è un'altra squadra. Quanto al discorso della qualificazione, qui ogni turno di Champions è un'impresa, e quindi mai come in questo momento io penso che, appunto, se il Milan dovesse fare l'impresa stasera sarebbe un trionfo, e poi chi se ne frega il turno successivo, cioè non so come dirvi, sarebbe, a parte l'aspetto economico, che sappiamo ogni turno di Champions comunque sono milioni di euro che ti entrano, ma poi proprio l'aspetto del prestigio, del ranking, sarebbe un'impresa che basterebbe da sola, anche a costo di perdere poi anche al prezzo di dover poi perdere pesantemente nel turno successivo, quindi da questo punto di vista secondo me non ci sono molti discorsi da fare. Il problema è che non è facile stasera, che è complicatissimo, è una partita molto molto difficile. Se guardiamo le statistiche, insomma, chi vince 1-0 fuori casa all'andata quasi sempre passa il turno, cioè, è chiaro che basterebbe un lampo all'inizio per cambiare tutto, però questo lampo non è facilissimo trovarlo, quindi vediamo. Senti. Poi non mi sembra onestamente che in questi 20 giorni il Milan sia così cresciuto. Ma a me un po' sì, sinceramente a me è piaciuto a Genova con la Sampdoria, mi è piaciuto molto nel primo tempo contro la Juventus, che partita che pure ha perso, mi è piaciuto molto meno a Udine, però è stata una gran mascherata, cioè, forse eccessiva. La migliore dell'era Pedro, quella dell'andata con l'Atletico Madrid, molto sfortunata. Quella mi è piaciuta, cioè qualche cosa di nuovo, di diverso, di interessante il Milan onestamente nelle ultime partite l'ha mostrato, però rimane sempre una... Si continua a parlare di difesa, però a me sembra molto più evidente il problema del gol nel Milan. Intanto si è smascherato quello che ci ha domandato se facevamo informazione o cabaret. sono quello del cabaret. Pagliaccio, non fare il furbo, si sa che sei anti-juventino. Eh sì, non lo so. Mauro Andria, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo parlare un po' di nazionale. Sì. Per sapere, ma si va a fare un mondiale di calcio oppure va a fare un po' di catechismo? Non lo so. Catechismo in che senso? Siccome dicono non ci vogliono teste matte, basta solo Balotelli, Cassano, no. A questo punto, sai, quei due ci hanno mandato in finale ai agli europei. Li vogliamo tutti e due. Appunto. Li vogliamo anche tutti e voi, due. Anche per voi, cosa parlate poi di catechismo? Ma chi parla di catechismo? Io li mando tutti ai mondiali. Questi tipi qua non si parla di niente, si parla solo di... A me lo dice. A me lo dice. Ma lo dica Pardo. Questa leggenda metropolitana non è che lo stipendio di un giornalista dipenda dalla quantità di, cioè perché dice voi giornalisti così potete parlare, non è che cambi la nostra vita, ecco, no? Questo lo dico come informazione alla nazione, cioè non è che se Cassano e Balotelli vanno al mondiale e quindi ci sono più cose da dire, più cose, ci aumentano lo stipendio. Questo, pure se andiamo con 11 catechisti, comunque le trasmissioni che facciamo ne parliamo, magari ci divertiamo un po' meno noi, ma soprattutto chi l'ascolta. Quindi no, perché c'è sempre questa storia qui, no? Ai giornalisti che alimentano le cose. In parte è vero, nel senso che sicuramente... Non te l'aumentano se... No, a me no. Poi dice posso mettere una clausola, parlo con il signore, mi faccio mettere una clausola per... No, perché c'è questa leggenda, leggenda metropolitana. Certo, no? Certo. Poi è evidente che il lavoro del giornalista in qualche modo cerca di trovare delle cose interessanti. Ed è anche vero, questo assolutamente noi e tutti per la sua responsabilità, che ogni tanto certe situazioni possono essere ingigantite, se ne può parlare troppo, questo posso essere d'accordo, però ecco, volevo fugare questo dubbio, ecco. Che non guadagniamo di più, cioè, sia chiaro, non becchiamo un euro in più se va a Cassano e Balotelli, se va a Cassano e non Balotelli, Balotelli non Cassano, per noi uguale, stesso stipendio, vabbè, io ci contavo. Pier, grazie, sentiamo. Ciao. È certamente un'impresa difficile, ma quando qualche anno fa si fece 2-2 col Bayern Monaco e andammo a vincere poi a Monaco con fra l'altro un gol di Seedorf oltre che di Pippo, se ricordo bene era una partita altrettanto difficile, quindi ci proviamo sicuro. Tutti convocati. Allora, con Pardo purtroppo mi tocca parlare tutti i giorni, ma da un po' mi mancava il direttore Paolo Liguori. Ciao direttore. Buongiorno. Ma tu come fai a sopportare Pardo? È una ricetta. Ma io sono d'accordissimo. Mi becco tutti i giorni. No, ma anch'io. Ma ci vado d'accordissimo. Ma... Siamo una coppia di fatto. Guarda, perché io in realtà, guarda, che non è mica come sembra. È un ragazzo è molto tenero, peggio. Affettuoso, molto tranquillo. Non è come sembra, è molto peggio, fidati. No. Senti, ma lo cantiamo insieme a De Profundis alla Roma con l'onore delle armi, No, senza De Profundis, diamogli l'onore delle armi, che c'ha un bellissimo gioco, ha fatto miracoli, diamogli un po' di onore delle armi, perché in questo momento nell'accumulo delle sfortune lamenta una perdita eccezionale, sì, che è una perdita del calcio europeo e mondiale, ed è stata solo il merito della Roma la scoperta. Poi quando è stato scoperto ed esibito tutti hanno detto quanto è forte, lo volevamo noi, però insomma per quella cifra lo potevano prendere anche però l'avete altri. Preso voi. Ecco, no, Sabatini, non voi, perché sennò voi, fa la parte della squadra. E tra l'altro no? Strootman l'ha anche detto una volta, Kevin, ha detto, non è vero che mi hanno cercato in tanti, ma ha cercato la Roma e ci sono andato. Beccala. Penso che Pierluigi se lo ricorda. Senti, ma non... fu un'intervista molto, molto sintetica, in cui disse, ma come mai ha scelto la Roma tra le tante? Ma no, mi ha cercato solo la Roma e sono andato. Senti direttore, ma va bene, onore delle armi massimo alla Roma, ma non diciamo che questo scudetto l'hanno vinto gli arbitri per la Juventus. No, gli arbitri no, l'ha vinto la Juventus, lo vince sempre la Juventus, non lo vincono mai gli arbitri. Gli arbitri sono, come si dice, spettatori muti. Mm-hmm. Muti, fischianti. Muti. Fischianti, cioè gli arbitri fanno parte di un baraccone che ormai non sta più in piedi, perché non gli arbitri non sono costituiti in una regolare federazione, fanno quello per professione. In un business come quello del calcio, che è enorme, che è un'industria tra le poche che continua a funzionare in Italia, penso che la regolarità assoluta vada garantita dal professionismo degli arbitri. Probabilmente sarò l'unico a dire questa cosa, ma questo mi fa ancora pensare di più che vada detta, perché è ridicolo che siamo in un sistema arcaico, in una delle industrie che ancora muove più passioni, cioè è ridicolo che sia arcaico il sistema degli stadi, che solo la Juventus abbia il suo stadio, e non lo dico per invidia, lo dico perché hanno fatto bene a farlo. Conosci l'Italia, cioè, conosci l'Italia, insomma, gli agnelli a Torino possono fare delle cose che altri però, non sono consentite. No, non è vero, guarda, c'è un problema oggi in Italia, sta cambiando tutto. Io sono molto fiducioso, anche se non dovrei esserlo come età, dovrei essere conservatore, disincantato. Invece io penso che entro qualche anno potrebbe cambiare tanta mentalità italiana. Siamo costretti ad accelerare, facciamo in tutti i campi, facciamolo anche in questo. Comunque, con questo la Juventus ha meritato lo scudetto per quella sua caratteristica esclusiva, solo juventina. Io spero che la Roma ci arrivi prima o poi, che è la forza della squadra, non dei giocatori, della squadra, dello spirito combattivo di una squadra. Io penso che molto abbia contribuito Antonio Conte a questa cosa, ma molto fa parte della storia proprio della Juventus. Direttore, mi sembri Mughini. No, guarda, io tra la Juventus, che non mi è molto simpatica storicamente, e Conte, che invece è antipatico a molti, ho molta, ma molta più simpatia per Conte. Nelle ultime due polemiche, o tre, che ci sono state con Prandelli, con Capello, io personalmente penso che avesse sempre ragione Antonio Conte. Questo lo penso anch'io, ma sai, poi mi chiamano anche con Prandelli, anche ma lo con penso Capello. Anch'io, ma lo penso anch'io. Poi però mi chiamano un sacco di ascoltatori, e non sono juventino, mi chiamano un sacco di ascoltatori e mi dicono: ma cosa parla quello che è stato invischiato nelle scommesse patteggiato, dovrebbe stare zitto, muto nella gabbia? Probabilmente ha patteggiato sicuramente, probabilmente è stato invischiato, tutto quello che volete voi, però lo spirito combattivo dell'uomo a me non può stare antipatico, perché sai, il mondo cammina perché ci sono persone che tirano il carretto. Conte è uno di quelli che prende una squadra e ne fa una squadra. Se vai a vedere, ne discutevamo anche con Pardo, la celebrazione dei difensori della Juventus. I difensori della Juventus non entrano nei primi tre del campionato, eppure tutte e tre assieme sono la seconda difesa del campionato, ma in ogni caso sono la difesa della nazionale, capisci? Quindi c'è qualcosa che ne fa una squadra, che non dipende. Io non direi mai che un Chiellini è più forte di Benatia, però dentro quel contesto sono fortissimi. Barzagli faceva la panchina, è andato nella Juve, è il più forte dei tre secondo me. Assolutamente più forte. Potrei continuare, però te lo dico in tutti i reparti, in tutti i settori, e poi devi spiegare come mai prende Tevez, prende Llorente, che non sono neanche, se vai a vedere le prime scelte, titolari, dove avevi Vucinic in partenza, poi hai preso e che sono, tra virgolette, mi si perdoni, scartati da altri campionati, che diventano fortissimi in quella squadra. Quella squadra la fa Antonio Conte. Direttore, dimmi un'ultima cosa, ma dove poi possiamo... la Roma sta avviata sulla stessa strada, visto che siamo partiti da Roma, adesso se no mi sentono a Roma, dice: ma che sei diventato juventino? No, io sono super romanista, con Garcia di più, perché Garcia sta costruendo questo spirito: serenità, equilibrio, spirito di squadra. Ieri Roma ha sofferto per Kevin Strootman, che è un olandese che è il primo anno che sta in Italia, come non aveva mai sofferto la città, i tifosi, per nessuno è arrivato il primo anno, come può soffrire solo per uno dei suoi romani di Roma, perché Garcia ha creato lo spirito di Kevin, lo spirito di Adem, lo spirito di Miralem, lo spirito di gente che sono diventati compatti. Hai ragione, ma secondo me infatti coach of the year, secondo me Garcia è l'allenatore dell'anno a prescindere dai risultati, poi non siamo quelli del pallone d'oro che vanno a misurare altre cose. Garcia per me allenatore dell'anno. Ma per chiudere, direttore, questa storia dei cori, delle qualifiche contro squalifiche, curve chiuse, curve riaperte, supplementi di indagine, Agnelli che dice domenica dalla tribuna non ho sentito nulla, ci può essere stato un coro sbagliato da parte di 30-40 persone, Mariella, Scirea, basta, cori dalla curva di mio marito. Dove andiamo? Noi partecipiamo un po' troppo a questo spettacolo. Siccome partecipiamo con i mezzi di comunicazione, lo alimentiamo, perché tu sai che una cosa mostrata, sentita una volta vale uno, mostrata, sentita mille volte vale mille, no? Certo. E quindi questo, ecco, poi noi mescoliamo tutto assieme, facciamo, ci piace il pastone, lo facevamo una volta pure con la politica, adesso lo facciamo col calcio, per cui il coro antisemita e il petardo in curva, anzi il petardo è più spettacolare perché c'ha il fumone colorato, ma non è la stessa cosa. Il coro antisemita è una cosa che c'hai nell'anima, il petardo in curva è una cosa che c'hai nella pancia, no? Certo. È diverso, tu tiri il petardo e ti diverti con i bambini, mentre invece il coro antisemita, cioè, devi sapere che stai dicendo, la gente non lo sa. Allora, noi abbiamo un problema grossissimo nei nostri stati, sono extra legem, fuori dalla legge, fuori, cioè se tu esponi uno striscione nelle nostre curve e lo espone un gruppo organizzato di almeno 10 persone, dai 10 in su, nessuno te lo leva, nessuno, non ci vengono gli steward evidentemente e non ci viene neppure la polizia se lo metti al centro della curva. Lo striscione si vede, viene filmato e poi scompare così come era apparso. Allora c'è chi dice non facciamo più gli striscioni, ma il calcio senza striscioni, allora tra un po' leveremo anche il pallone, no? Così non ci saranno liti. Ma hai visto questi belli stadi italiani, antichi o sudamericani o di tutto il mondo con gli striscioni? Gli striscioni ci devono entrare, alcuni striscioni no. Come fare a levarli? Bisogna avere il controllo degli stadi. Come si ha il controllo degli stadi? Gli stadi devono essere di proprietà delle società e allora ne rispondono. Se entra uno striscione in curva dello stadio della Juve, è uno striscione juventino, non c'è discussione dell'associazione della Juventus. Quindi tu dici di quelli... Se entra uno striscione del Chelsea nella tribuna del Chelsea, è del Chelsea, così come è del Chelsea il provento di quello stadio. Quindi tu dici è una questione di competenza territoriale quasi. Direttore, io ti ringrazio al GR, però grazie davvero. Puoi dire tu controlli lo stadio, ma è del CONI, non lo puoi fare. Certo. Paolo Liguori, grazie. Sentiamo dopo 800240024, vi aspetto qui. Tutti convocati. Giocatore italiano oggi, poi sarà anche aiutato nella convocazione dagli assenti probabilmente Cassano, però qual è il giocatore italiano oggi che ha fatto quella roba che abbiamo visto prima, che dopo che il portiere lascia nessuno. Quella palla lì fa quel giro, nessuno. No? Nessuno. Nessuno, la realtà è questa, per cui qual è il giocatore italiano oggi che può entrare e fare giocate? Il mondiale, l'europeo si risolve Francesco Totti, Francesco Totti, chi è? Fughini? Devi ragionare, non è la giocata fulgente, il numero da acrobata, è giocare dentro una tessitura, perché una squadra è una tessitura, come voi avete detto nella Juve. 20 giorni in Brasile d'estate significa mandare dei giocatori che abbiano una resistenza fisica pazzesca. Noi siamo stati un'altra volta in quella nazionale. Noi siamo stati un'altra volta in condizioni. Noi siamo stati solo negli Stati Uniti in condizioni climatiche vicine a quelle che sono in Brasile. Beh, sempre molto divertente, eh? Sempre molto divertente, così ieri sera di Tiki-Taka tra tutti quanti, Liguori che è stato prima il nostro ospite, Cruciani la Zanzara e Mughini e tutti a capigliarsi però intorno al nome di Cassano. Io sto con l'ascoltatore di prima, ma che andiamo a mondiale di calcio a catechismo, andiamo a mondiale di calcio in una nazionale come quella italiana, abbiamo visto un'ulteriore abbastanza banale prova, inutile prova contro la Spagna. Facciamo fatica, non abbiamo la scintilla del giocatore che accende improvvisamente il fuoco. Dunque è fatale che si vada avanti di qui a là e magari molto oltre a parlare di quei pochissimi giocatori italiani, peraltro anziani, se parliamo di Cassano o in età da pensione se parliamo di Totti, però restano gli unici signori che sono in grado di accendere l'interruttore. Poi è chiaro che gli oltranzisti del tifo capiscono anche quello che vogliono, no? Mi è arrivata una mail di una faccio outing di una signora, di un'ascoltatrice che diceva ma non perdono a Pardo una frase, vi ascolto sempre, non perdono a Pardo una frase che ha detto l'altro giorno quando ha detto che sarete a Napoli, e in effetti saremo a Napoli venerdì con questo programma in esterna, on the road, io, Pardo, eccetera eccetera, Napoli, Fiera d'Oltremare, veniteci a trovare. Ma soprattutto Pardo ha detto, speriamo che il Napoli ci faccia un regalo, questa signora tifosa della Roma ha detto, ecco adesso sarà contento che gli ha fatto il regalo, ha battuto la mia Roma e non doveva dire una cosa così. No, no signora, ma Pardo si riferiva ad un regalo per noi, per voi, per il nostro programma, che insomma che l'ufficio stampa del Napoli dovrebbe farci, cioè potremmo avere un grande ospite con noi a Napoli nel programma, e questo forse sarà il regalo. Vi dico il nome un'altra volta, più tardi, o domani, o dopodomani, non so, quando mi giro, oppure direttamente a Napoli, state sempre collegati. Allora, no, dicevi, i tifosi capiscono quello che vogliono loro, perché c'è Valerio che mi scrive, ma cosa ha detto che gli Agnelli è stato concesso cose che ad altri non viene consentito, non si vergogna? Cioè hanno fatto uno stadio violando le regole, ma le pare Valerio che io ho detto questo? Io ho detto semplicemente che alla famiglia Agnelli a Torino sono concesse delle possibilità nei confronti di una burocrazia pazzesca che esiste in Italia, che magari da altre parti, degli ostacoli che sono più bassi rispetto a quelli che si trovano in altri posti d'Italia. Insomma, ci sarà una ragione per cui l'unico stadio che abbiamo visto nascere, al di là dell'episodio di Reggio Emilia, ora Sassuolo, e di quello di Udine che sta per essere edificato, ci sarà una ragione. Se uno straniero, che sia Pallotta, che sia Toir, che arrivi in Italia, dice priorità allo stadio e poi il progetto va ad arenarsi tra piani regolatori, tra problemi connessi alla struttura del territorio, insomma costruire, io non dico uno stadio, ma una casa in Italia è un'impresa impossibile, e vi parlo per esperienza personale, perché vai a stampare il muso contro norme, regolamenti, piani regolatori vecchi che devono essere aggiornati, consigli comunali che cadono, eccetera eccetera eccetera. Quindi io dico, in Italia costruire uno stadio di proprietà in maniera normale è un'impresa ciclopica, e in questo la Juventus è stata bravissima. Olindo, provincia di Rieti, buongiorno. Buongiorno. Mi ascolta? Sì. Io volevo intervenire, no, su cosa ha anticipato lei quando è iniziata la trasmissione, sul fatto della Champions League, che praticamente sono rispecchia i campionati delle quattro squadre che alla fine vanno alla finale. No, ma non è che li rispecchia, è che anzi non li rispecchia per niente, cioè nel senso che queste squadre rispecchiano solo se stesse. Cioè il Bayern Monaco rappresenta se stesso, il Chelsea rappresenta se stesso, Barcellona e Real Madrid idem, e Paris Saint Germain pure, quindi il problema è quello, che non rispecchiano proprio un bel niente. Però io volevo fare riferimento ad una cosa, sì. Praticamente che queste squadre tirano fuori fior di soldi e riescono a acquistare, diciamo, i più grandi campioni, e poi è chiaro che fanno un campionato a parte, perché si giocano la Champions loro quattro, mentre tutto il resto, anche la Juve compresa, io sono juventino, però anche la Juve compresa è una squadra mediocre in Europa. Quando si va a confrontare con dei colossi come il Barcellona e il Real Madrid, perché? Perché hanno con i soldi riescono a comprare più campioni. Ecco, Pogba ad esempio la Juve tutti lo cercano, ecco, se va fuori Pogba la Juve diventa ancora più mediocre e va ad arricchire il parco dei giocatori, insomma delle squadre che alla fin fine si giocano sempre la Champions. Sì, certo, questo lo fa la legge. Sa Olindo che mi sembra di parlare con Abete, alla voce che ricorda quella del presidente federale, ecco, non io detto la coppa che ricordo, ma non lo dico da juventino, lo dico con orgoglio. È la Coppa UEFA che è stata vinta nel 76-77. Andiamo un po' indietro, messi a mettere. Allora c'erano sempre delle grandi. Allora era una grande squadra con i nostri. No, e ecco, anche sicuro, perché mi riallaccio anche al fatto della nazionale. Forse noi paghiamo lo scotto anche che alla fine facciamo giocare gli stranieri e teniamo Cassano e Balotelli ancora in discussione per portarli ai mondiali. Ma Sario, vabbè, le discussioni proseguiranno, continueranno all'infinito, non solo su Cassano e Balotelli. però non è che dalle altre parti insomma facciano giocare esattamente solo autoctoni, è anche una questione di affari, di mentalità, di tempi che si muovono, che cambiano eccetera. Certamente in Italia è una questione di mentalità, per cui continuiamo a dire che un giocatore di 22-23 anni è un giovane giocatore, secondo me è una stupidaggine pazzesca. Un atleta professionista di 22-23 anni non è un giovane giocatore, è un giocatore, è un campione, oppure non è, non è un giocatore di livello. Quindi non questa etichetta, questo aggettivo che quasi va a proteggere giocatori che hanno 22-23-24 anni in Italia esiste soltanto da noi. Quanto al resto, ripeto, secondo me man mano che passa il tempo e passa le stagioni, io vedo che questa oligarchia del calcio europeo diventa sempre più forte, che appunto non rappresenta nemmeno più il campionato di appartenenza. Queste grandissime squadre molto ricche rappresentano soltanto se stesse, la loro ricchezza, la loro opulenza, e giocano nel loro giardino. Le altre possono andare lì a fare un po' di festa, ma alla fine sai benissimo, anche in una competizione che dovrebbe essere il massimo dell'alea, della possibilità di sorprendere eccetera, come la Champions League nella seconda fase, quando si gioca ad eliminazione diretta, ebbene basta guardare i risultati della gara di andata degli ottavi e sai benissimo come va a finire, quasi sai benissimo che arriverà in semifinale. Si riduce quasi tutto paradossalmente alla partita secca della finale per avere un po' di poter usare un po' di fantasia, mettiamola così. Marco Pescara. Allora, ciao. Tutti, chiamo da Cerratina, provincia di Pescara, Cerratina. Paese. Venire lì, vogliamo portare il programma lì a Cerratina. Adesso sono davanti a un campo di ulivi, mi sto ascoltando fuori perché i telefoni non prendo. Sì. Allora, a proposito di giocatori che accendono la luce nazionale, e a proposito di giocatori che vengono il telefono fa fatica anche fuori, Marco. Prova a spostarti. No, non ti sento, non ti sentiamo. Mi spiace. Michele Roma, poi magari ci riproviamo. È con Marco. Michele, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, complimenti per la tonalità, per il garbo della trasmissione, che è veramente godibilissima, vi seguo spesso. Grazie. Volevo, non per fare, è la mia prima convocazione, quindi vi ringrazio per questo. Volevo dire una cosa, ascoltavo un commento sulla Juve di Capello nel 2006, e c'era un riferimento naturalmente alla questione di Calciopoli. Su questa questione, e non per fare una battaglia di retroguardia come lei dice con tanto gusto spesso, volevo ricordare soltanto, anche per affermazioni che potrebbero anche essere fatte in futuro e che spesso anche tifosi di altre squadre fanno alla sua trasmissione, che la giustizia ordinaria, che indubbiamente ha avuto molto tempo per indagare sulla faccenda, ha detto che i due campionati presi in considerazione non hanno messo in evidenza partite che erano state modificate, che erano state alterate, e la giustizia sportiva, che pure aveva avuto circa 100.000 intercettazioni sul telefono di Moggi, non era arrivata a delineare un illecito sportivo, quello che poi anni dopo è stato invece delineato per l'Inter. Ecco, voglio dire questo soltanto per una completezza di informazione. La questione non è ancora terminata, lo sappiamo tutti. No, io, quindi quando si parla di calcio, Michele, se ne parli sempre tenendo presente questi aspetti. Sì, ma la domanda vera è: finiremo mai di parlare di Calciopoli? No, perché io spesso ho degli interlocutori che mi dicono: ma dai, Calciopoli è il passato, ma dai, stavamo nel 2006, siamo nel 2014, sono successe tante cose. E io, visto che sono un po' disilluso, dico: ma nella nostra mentalità Calciopoli sarà sempre oggi, Calciopoli sarà sempre presente. E allora io a lei domando, alla luce di questa ricostruzione, che le dico la verità, non l'ho seguito fino in fondo, ma finirà mai Calciopoli? Finiremo mai di parlare di questi argomenti? La risposta la conoscete tutti, eh? Io credo che la risposta sia molto semplice. Franco Piantalini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 14 e siete sempre tutti convocati. Ciao.